Allora, intanto buonasera naturalmente a tutti voi anche da parte mia. Aspettando Maurizio De Giovanni, cogliamo l'occasione, anche perché essendo la terza serata, la serata di chiusura, mi sembra il momento opportuno, visto che sono due giorni che avete sentito parlare, avete anche visto questo volume per il decennale del Festival di Tutti i Colori del Giallo, il giallo nel giallo, ormai l'avete visto, stravisto, ve l'hanno fatto vedere, cogliamo l'occasione per entrare anche minimamente nel merito. E per questo faremo una brevissima e concisa chiacchierata per capire come è nato e in che cosa consiste. Prima di questo, però, siccome forse l'avete già capito, ci sono dei contributi che naturalmente ricordano questa avventura lunga 10 anni, Antonio Ballerio ce ne legge un estratto per capire di che cosa si tratta. E gli passo il microfono. Oh, va bene. Ho visto cose che voi scrittori non potreste immaginarvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni d'Orione e placidi battelli solcare le acque del lago di Lugano. Sì, perché anche se era roba da fantascienza, non mi trovavo in una scena di Blade Runner, ma a Massagno. E anche se ne ho viste di tutti i colori, erano tutti i colori del giallo. Ho visto così file pazienti di persone in attesa di entrare nel cinema Lux per ascoltare non l'esibizione di una rock star, ma un autore di romanzi. Ho visto che ognuno di loro aveva pagato e non era stato pregato per partecipare all'evento. Ho visto una sala colma in ogni genere di posto, attenta, partecipe, comunicativa, senza essere stata ingaggiata per lo studio di un talk show televisivo. Ho visto che tra le mani di ognuno, come fosse l'oggetto più intimo, non c'era uno smartphone, ma un libro, che si parlava di letteratura con più passione di una finale di Champions League, che tutto si svolgeva serenamente, sinceramente, senza fronzoli, retoriche, ammiccamenti, imbonimenti. Ho visto ruote di pesce spada, enormi teglie di pasta al forno e con le sarde, vassoi colmi di dolci e di torte di ogni genere. E non si trattava di un banchetto nuziale siciliano, ma di quello che, con modesta discrezione, era stato annunciato come un semplice buffet in tema offerto ai lettori. E ce n'era per tutti in abbondanza. Non quel micragnoso sorso di vino generalmente spacciato come aperitivo letterario a conclusione di una roboante presentazione. E senza bisogno di sgomitare e pestarsi i piedi. Ho sentito che oltre alle 300 persone presenti, almeno altrettante erano le richieste di partecipazione. E che nonostante questo, la formula, i luoghi sarebbero rimasti gli stessi, per non snaturare lo spirito della manifestazione senza alcun cedimento alle sirene del botteghino e delle mondanità di massa. Ho appreso dal sindaco che tutta l'iniziativa non grava minimamente sulle casse comunali, che è possibile fare cultura senza abusare del denaro pubblico o destinarlo a coprire le spese di rimborso per l'acquisto di uno stock di mutande verdi, che con le scelte di qualità, anzi, è possibile ricavare guadagni e prestigio. Ho scoperto, last but not least, l'esistenza di un eccellente merlot locale e di un'ospitalità calorosa e non affettata. Ditemi voi, a questo punto, cari scrittori, cari amministratori, se non è roba da fantascienza. Buon decennale! Ecco. E questo... Grazie. Era Gianmauro Costa. Scusate, Gianmauro Costa, che come sapete è uno dei tanti ospiti scrittori che hanno animato questi 10 anni. Allora, un libro, un volume per onorare, direi, un successo lungo 10 anni e che andrà avanti per almeno altrettanti. Allora, sindaco Giovanni Bruschetti, la manifestazione ha indubbio successo, l'hanno testimoniato tutti sempre, ancora una volta anche ieri Olivier Truc è rimasto stupito, è una cosa rarissima, forse più unica che rara, per tutti i motivi anche che sono stati raccontati nel contributo di Gianmauro Costa. Da dove però l'idea di fare proprio un libro e questo libro? Ma l'idea Tra l'altro, buonasera a tutti. L'idea è nata perché credevamo di dover mantenere o comunque conservare questa straordinaria esperienza che stiamo vivendo da ormai 10 anni. È una ricchezza straordinaria che evidentemente avevamo qua e là immaginato di poter inscatolare in una confezione particolare, ma non riuscivamo bene a capire cosa poter fare. Quello che abbiamo tentato di fare è chiedere innanzitutto aiuto ai vari autori che si sono succeduti, vuoi prima a Palazzo Nosedo, ora al Cinema Lux, e vedere con loro questi loro contributi. Questi contributi insieme alle varie fotografie, insieme a tutta una serie di documentazione che sostanzialmente racchiude ben 10 anni, ben 30 serate, ben 30 volte 300 persone, numeri importanti che era opportuno tenere in considerazione e offrire attraverso questa raccolta, questo libro, che è una cosa abbastanza particolare. L'idea non è mia, non è stata nemmeno di Fabrizio Quadranti. Devo dire che l'idea originaria di questi contributi agli scrittori è stato proprio del primo autore che ci ha accompagnato 11 anni fa, di Santo Piazzese, con cui camminando sulle rive del lago di Lugano un pomeriggio ha lanciato questa ipotesi. Era 3 anni fa. Adagio ci abbiamo pensato e, chiedendo aiuto a destra e a sinistra, vedete poi quali sono i veri autori di questo progetto, siamo riusciti a confezionare questo regalo, diciamo così. Ecco, io adesso infatti vorrei sentire chi ha lavorato proprio in prima persona alla costruzione di quello che poi da progetto è diventato libro, quindi qualcosa di tangibile che si può portare a casa, che si può sfogliare, che si può guardare e che secondo me è accattivante, non fosse altro perché, io sono sicura, molti di voi c'erano, quindi è anche una parte del vostro vissuto. Ecco, e questo secondo me è un aspetto, Giovanni Bruschetti, particolarmente interessante, cioè diventa la memoria, una memoria anche da lanciare nei prossimi anni, nel senso che l'identità, come tutti ormai andiamo dicendo da tempo, passa davvero attraverso queste cose, cioè tenere presente che cosa abbiamo fatto, che cosa siamo, che cosa si è costruito e anche, credo, un certo valore sul territorio, perché sicuramente questo, come peraltro anche Gianmauro Costa ha detto, rende onore a Massagno. Sì, rendo onore a Massagno sicuramente, ma credo che rendo onore sostanzialmente alla cultura ed è gratificante per gli amministratori comunali, per il direttore delle scuole, eccetera, eccetera, poter arrivare a offrire queste serate, ma soprattutto, oltre a offrirle, avere una costanza, una via di percorso abbastanza evidente. Ripeto, sono 10 anni, tutto è iniziato così, quasi per gioco, a mo' di sfida, chiedendo a Fabrizio Quadranti di immaginare qualcosa che potesse diventare allo stesso tempo evento culturale, ma anche evento sociale, aggregativo. Mi ricordo che Fabrizio ci ha messo relativamente poco, mi pare un paio di settimane, per immaginare questa proposta, e mi ricordo benissimo che era addirittura, aveva un certo pudore a raccontarmela, perché non pensava che dall'altra parte gli potevo dire immediatamente: bellissimo, sì, facciamolo. Dopo, naturalmente, io ho finito lì, dopo ho cominciato lui a lavorare, certo, con tanta passione e da tanto tempo. E con grandi risultati. Dunque, veniamo poi a quello che è di fatto il libro, perché abbiamo fatto un cenno a questi contributi degli scrittori. Perfetto, però i contributi sono molto diversi l'uno dall'altro. E allora un gruppo di persone, e abbiamo con noi al tavolo Ilaria Podestà, che è portavoce delle persone, che sono 6 se non sbaglio, che hanno lavorato a che questo progetto diventasse qualcosa di più consistente. E questo credo che sia il lavoro forse più difficile, perché voi avete, se non sbaglio, avuto inizialmente il materiale che, per bello che sia, è disomogeneo. Ci sono ricordi, ci sono dei veri e piccoli micro racconti, ci sono delle riflessioni, delle suggestioni. Ecco, come avete pensato e poi trovato la strada per costruire qualche cosa che avesse un senso nel suo complesso? Sì, è vero, abbiamo ricevuto del materiale, moltissimo materiale e molto diverso. Tutta la parte ricevuta dagli autori che hanno partecipato alle 10 edizioni di festival in varie forme, lettere, racconti, ricordi e poi tantissime fotografie che rendevano benissimo l'atmosfera dei 3 giorni di festival. Ci siamo dati come obiettivo quello di lasciare ad ogni racconto, ad ogni contributo, uno spazio autonomo proprio che gli rendesse merito e senso nella sua unicità. E dall'altro canto volevamo ricreare un pochino l'atmosfera del festival al quale non avevamo mai partecipato, ma ce n'era stato parlato con molta passione, molto trasporto e molta gioia in un qualche modo. Quindi volevamo creare qualcosa che potesse trasmettere allo stesso modo questa atmosfera leggera ma significativa. E la cosa che ci è sembrata più sensata era dare una cornice gialla a tutti questi contributi, cercando di inserirli all'interno di una storia dove Massagno e il suo festival fossero protagonisti insieme a tutti gli abitanti del paese, qualcuno più di altro, qualche protagonista particolare, e in questo modo fare in un certo senso rivivere il festival e i giorni di festival all'interno del libro, grazie ai contributi di tutti gli iscritti. Di più non vi diciamo, perché così vi resta quantomeno il gusto di andarlo a spulciare e di scoprire qual è l'elemento comune che appunto ha costruito proprio il filo inanellando contributo in contributo nella loro diversità, ma creando una cosa omogenea. Ma la cosa che secondo me è anche particolarmente intrigante è che da questi singoli racconti hanno partecipato quasi tutti, mi sembra di sapere, moltissimi dei tanti scrittori che sono stati di anno in anno ospite, e beh, che scoprite anche qual è la loro peculiarità, secondo me. Cioè troverete il Narciso, e già l'avrete capito quando l'avete incontrato e l'avete ascoltato, troverete quello più intellettuale, raffinatino, e anche lì secondo me capite subito, troverete quello più generoso, quello che si dedica proprio al racconto puro, quello che in un qualche modo si rivela attraverso questi piccoli racconti. Quindi nella diversità siete riusciti a trovare un'omogeneità. Sì, sicuramente. È stato, bello poter lasciare ad ogni elemento, ad ogni contributo, la sua particolarità e farlo in un certo senso parlare proprio con la voce dell'autore che l'ha scritto, trovando il posto giusto all'interno del quale inserirlo in un contesto comunque continuo, omogeneo, in grado di essere seguito con una sorta di continuità. Quindi differenziarsi da una raccolta che non ha una vera e propria struttura, creare un ambiente all'interno del quale tutti questi piccoli pezzi componessero un puzzle. E c'è una parte creativa, strettamente creativa vostra, che è stata la scrittura, cioè tutti questi raccordi sono vostri. Sì, sì, certo, ci siamo divertiti. Va pur detto. Divertiti a raccordare, come era in effetti necessario in questo caso, tutti questi contributi che sono molto interessanti da leggere anche per la loro diversità e le loro particolarità. Ecco, e a dare un'impronta e ad armonizzare il tutto anche un lavoro grafico non indifferente. La grafica è seduta vicino a noi, magari possiamo anche citarla perché mi sembra che abbia fatto un bellissimo lavoro. Sì, la nostra grafica è stata Martina Burgoa e ha capito, quando le abbiamo spiegato il progetto, immediatamente dove volevamo arrivare. Si è così ispirata ai film noir, a comunque l'immaginario un po' del noir e del giallo che c'è, creando le carrellate di immagini che hanno dato un giusto posto anche per le tantissime fotografie che in tutti questi anni sono state raccolte. Io mi fermerei qui, voglio soltanto dirvi che uno dei tanti motivi per cui può essere curioso prendere in mano questo libro è che intanto sono pezzi inediti che non trovate da nessun'altra parte, dove scrittori mondialmente famosi, cito una per tutti per fare un esempio, solo perché è la prima che mi viene in mente, come Alicia Jiménez-Bartlett, ha scritto qualche cosa che altrove non trovate. E poi, per esempio, che Massimo Carlotto, il pezzo che ha scritto, racconta davvero come è nato quello che è diventato il suo più recente libro. Quello che troverete nel libro di Carlotto, in un qualche modo, ha avuto un germe, un'origine, proprio qui, davvero, a Massagno, e di Massagno parla il libro. Noi però adesso, sempre attendendo il nostro ospite che a minuti arriverà, vorrei chiudere questa cosa con un altro minuscolo racconto che è talmente bello che non possiamo perderlo. E Antonio ce lo legge. Possiamo anche dire l'autore? È Gianni Mura l'autore. Non occorre arrivare in fondo. Il colpevole sono io. Ma non è interamente colpa mia. Sono partito da tutti i colori del giallo e ho trovato i calori e i dolori. Sono arrivato sul lago che si vede da Massagno. Lugano, anagrammando un lago. Per i calciofili, un gol, cioè si scrive un goal. Lago è goal, ma anche gola. Se la rassegna di gialli continua, non è una rassegna rassegnata. Troppi gialli in un pollaio? E chi l'ha detto? Basta mantenere la linea di galleggiamento. Gialleggiare. Si potrebbe aprire una libreria specializzata sotto un tunnel e chiamarla gialleria. Si potrebbero fare tante cose. Di due investigatori famosi, chiamiamoli per nome, Hercule e Jules, che fa pure rima, mi hanno sempre colpito le contiguità gastronomiche. Maigret de canard sauce poireau, ma prima ancora, Auguste Dupin si può maccheronicamente tradurre in al sapore del pane. Dupin, s'il vous plaît. E che ci fai col pane? Scarpetta, Kay. Alto e secco, Ellery Queen potrebbe chiamarsi Celery. A Milano si dice gamba de seller, così era soprannominato il mediano interista Dino Achilli. E un avvocato che sa arrivare al nocciolo della questione non potrebbe chiamarsi Sherry Mason? Stavo per scrivere un avocado, pardon. I gialletti sono funghi, ma anche dolci veneziani. Del creatore di Carvalho è nota la passione per la tavola. Mica si chiama Pepe per caso. Ma forse è un caso che la derivazione di Montalbano sia una delle doc del Chianti. Denominazione di origine controllata. E chissà quanto è costato a Rex, come un frigorifero, Stout, come una birra, aver dato al bravo Arci il cognome Goodwin e non Goodwine. Forse si era già sbilanciato con Nero, come un Pinot Wolf, e col suo cuoco svizzero Fritz Brenner, che conserva 289 libri di cucina. In sostanza e costanza, a Massagno si legge. Certe pagine si divorano, altre si centellinano. A Massagno si può aprire il cuoco e il fuoco, o il fuoco per il cuoco, meglio se non cuoco fatuo. Arma scelta, pistola, anagramma, il pasto. Gianni Mura.